non avrai più niente da temere. Tra le vipere del tuo cortile stanno dormendo sotto quel sasso. Smetteranno i galli di cantare, non avrai nessuno da tradire, nessun impegno. Sceglieremo un giorno per partire, non avremo.